Donia diri, mi gasti un facci. E più sempre sauro più verso cioccolati. Mi gastio, ma non mi bio, in gusto cazzo de sprigo. Seo, deo, bo me, su nico nemigo. Non si me la brescia menciano, gando mi indisciru. Non si me da di accordi, gando punta za su diru. Na, na, os amigo, non stessi troppo vigo. A me mi pare di cacciarsi verdi su sentiru. Cambia musica, cambia giro, se leggero gasso tigo. Non das ancora compendi mentre noi su murigo. Mo mi gastio un faccio e sigo, sa sotte non mi ritiro. Quis manos in bucciacca, non si frima su casino. Non s'allevia su fastidio, zerrao scriendo in gusto cazzo. Magazzino, c'è di un motivo, du fazze di una boita du bivu. 24 ore a sadiri, mi serio cioccolati noi zisciri. Sarà per subistiri, non posso usufruire. A chi ni spura pizza e sa bandiera. Tra i tori, zig e giuda, sa notte sull'ultima scena. Quando dorranta in Sardegna, si va in santa gente allena. Io gastio in curi ma non bio nulla. Mi gastio ma non mi bio. Mi gastio de gandu ve muvi pio. Mi gastio ma non di bio. Mi gastio in gusto mondo e de gusto mondo mi da rio. Mi gastio ma non mi bio. Mi gastio de gandu ve muvi pio. Mi gastio ma non di bio. Mi gastio in gusto mondo e de gusto mondo mi da rio. Nanta. Sannotti vota la consiglio. Ma deo se ho sempre uscire e mi intendo de si su villo. Se ho sempre in movimento non mi bra gira parrei primo. Calme, tranquillo di du scrivo e di du firmo. Gu nomi e cognomi. Oh mini cica sa regioni. Si chi gusta processioni. Gun sa rispetto e gun sonori. No pezza sta simpo storia. Regora se educazioni. Ascuta su goru la sa verdi sa tentazioni. La sa di du nai deo nomi ni prenefizio su. Sempre noi a pizzo su. Se rengu sa mansarda in mezzo e disco su. Un'altra rima resce in gusto guturu. No se ho su primo. E manco sutimo, e manco su di mi gastio ma non mi bio. Mi gastio de gandu ve muvi pio. Mi gastio ma non di bio. Mi gastio in gusto mondo e de gusto mondo mi da rio. Mi gastio ma non mi bio. Mi gastio de gandu ve muvi pio. Mi gastio ma non di bio. Mi gastio in gusto mondo e de gusto mondo mi da rio.